digital. Stavo, a che ore sì. So? Da! Oh. Madonna mia! Sono le 4! Ma che cazzo, le 4! Ehi, sono le 4, non so che ho fatto! Ancora sbronzo buffato! La puzza addosso dell'alcol, le occhiaie blu cobalto! Ma tanto, per ogni guaio che spunta ce n'è un altro! Mi serve un po' di verde, tipo una punta al parco! Ma in giro mi sembra che tutti mi guardino male, perciò mi va di volare! Ho una ricetta che è particolare, perfetta da farti provare! Ho pasta merda nell'auricolare, vai sempre avanti, mai ricordare! Niente rimpianti, agli altri non ci pensare! Restano voci ferrare! Io sto in after da troppo! Dalle 4 al tramonto, per un botto di ansia e da sbrocco, mai stato in classe alle 8. Ieri sognavo un impero, oggi in casa un emporio. L'aria depressa, dopo ogni festa, cerca la testa Sant'Antonio. Dormo abbracciato ad un secchio, poi vedo un teschio allo specchio. Ognuno pensa quando sarà vecchio, per me non ci sarà tempo. Alcol puro, gin liscio, faccio lo schifo, non me ne curo, non vi inculo, mi striscio, senza futuro, Sid Vicious. Na na na na na na na na. La sveglia fa na na na na na na na na na. La testa fa na na na na na na na na na. La gente fa na na na na na na na na na. Mi addormento alle 4, mi sveglio alle 4, mi addormento alle 4, mi sveglio alle 4, mi addormento alle 4, mi sveglio alle 4, sono sempre alle 4. Sono sempre alle 4. Canna spenta sul petto, entro sul divano, ma c'è riscendo, poggio il piede destra sul bong, l'altro sui bra. C'eri gli occhiali da sole alla ma, diami, caprono il volto che gli occhi mi brillano come i dia. Dammi le pupille come quelle degli alieni. Sono le 4 di venerdì, prendo un sorso di succo ma dentro c'è l'MD. Lo mando giù e mi apre la testa, Kennedy. Voglio uscire e non risendermi qui, la gente che vomita dentro i bicchieri che sono ancora pieni di gin. Strisciano che sembra Amityville, ogni settimana la stessa storia. After Airlines, corro veloce, McFly, 16 ore per guy, dentro i locali sbagliati, sempre gli orari sballati, in giro con gli sbandati, ci perquisiscono senza i mandati. Ma ancora le giro enormi fra, e ne giro un'enormità, me la vivo in orbita, come facevano gli Orbital. Pompo nelle casse, non ho un soldo nelle tasche, voglio lo sconto delle tasse, per ogni giorno che sto in after, yeah. Na na na na na na na na. La sveglia fa na na na na na na na na. La testa fa na na na na na na na na. La gente fa na na na na na na na na na. Mi addormento alle 4, mi sveglio alle 4, mi addormento alle 4, mi sveglio alle 4, mi addormento alle 4, mi sveglio alle 4, sono sempre alle 4, sono sempre alle 4.